La civetta, capitolo sesto di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitare il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, novembre 2007. Mirice, di Giovanni Pascoli. La civetta, capitolo sesto. Stavano neri al lume della luna gli erti cipressi, guglie di basalto, quando tra l'ombre svolò rapida una ombra dall'alto. Orma sognata d'un volar di piume, orma d'un soffio molle di velluto che passò l'ombre e scivolò nel lume pallido e muto. Ed i cipressi sul deserto lido stavano come un nero colonnato, rigidi, ognuno con tra i rami un nido addormentato. E sopra tanta vita addormentata dentro i cipressi, in mezzo la brughiera, sonare, ecco, una stridula risata di fattucchiera. Una minaccia stridula seguita forse da brevi pigolii sommessi dal palpitar di tutta quella vita dentro i cipressi. Morte, che passi per il ciel profondo, passi con ali molli come fiato, con gli occhi aperti sopra il triste mondo addormentato. Morte, lo squillo acuto del tuo riso unico muove l'ombra che ci occulta, silenziosa, e desta l'improvviso squillo, sussulta. E quando taci e par che tutto dorma nel cipresseto, trema ancora il nido d'ogni vivente, ancor nell'aria l'orma c'è del tuo grido. Fine del capitolo sesto.